andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Vedi Giuseppe, io vorrei scardinare Fabio Fazio, l'immobiliarista Fabio Fazio. Io vorrei sapere come Michele Guardista a Rai 3 da 25 anni ha fatto una missione piena di polvere. Vorrei sapere chi sono quegli uomini che vanno a letto comprati in cussura. Ma sono tutte domande che io adesso mi facevo qui con un amico che era stato via. Noi parlavamo di questo. Vorrei sapere quale motivo Prodi non sia ancora stato ammazzato. Io vorrei sapere anche come fa Maurizio Costanzo di rifare i rapporti, vorrei saperlo. Io vorrei sapere da De Filippi quali modalità adoperano per avere dei rapporti sessuali. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Ragazzi, iniziamo questa sera subito con un personaggio antico che però è tornato sulle prime pagine di tutti i giornali, incredibile, Achille Occhetto. Molti di voi giovani che siete all'ascolto non si ricordano assolutamente nulla del signor Achille Occhetto. Male. Achille Occhetto male, è stato male. Quello che sostanzialmente ha cambiato nome al Partito Comunista Italiano, vabbè, poi tante altre cose. Perché l'hanno messo in mezzo? L'hanno messo in mezzo perché insieme alla moglie prendono in tutto 6.000 euro di vitalizio al mese. Lui dice che questi soldi gli servono per campare, questi soldi gli servono anche per mantenere i figli disoccupati, tra le altre cose. Poi si è un po' pentito di averlo detto, di aver messo in mezzo i figli, ma soprattutto incassa. Ha incassato fino adesso centinaia di migliaia di euro, pur avendone versati molto meno. Questo è il punto. Ma siccome anche come deputato onesto ho due figli e disoccupati e non ho mai utilizzato il mio potere per trovare un lavoro, mi troverei in uno stato di povertà assoluta. Se mi tolgono il vitalizio vado in povertà assoluta perché devo mantenere anche due figli disoccupati. Io sto dalla parte di Occhetto, te lo dico subito e poi ti spiegherò perché anche subito. Rinunciare a una parte del suo vitalizio e passare a un nuovo regime. Se lo Stato decide può farlo, deve sapere che mi porta allo stato di povertà assoluta. Addirittura? Sì. Ma lei prende quasi 6.000 euro lordi al mese. Sì, ma lo stato di povertà assoluta consiste nel fatto che io non, a differenza di molti altri, andate a vedere tutti i redditi, non mi sono arricchito. Achille Occhetto, è evidente che se uno ti toglie 6.000 euro sulle soldi sui quali hai contato per, che ne so, per 20 anni da quando non fai più politica e non hai altri redditi diventi povero. Su no, questo no, non no, c'è un dubbio. Momento, il caso non è questo. Stiamo parlando di una campagna diffamatoria costruita dal Libero. Ma perché diffamatoria? È una campagna contro i papponi del vitalizio, punto. Non è un pappone il signor Occhetto, no, che ha fatto per una vita così. Il politico, è una persona per bene e non ha mai rubato, e lui in questo lo dice. in questo non è che in questo è speciale in un mondo in cui la politica ha rubato. Vabbè, allora? Ha fatto questo con orgoglio, facendo per tutta la vita del politico. Non si è neanche comprato una casa di proprietà, non ha messo, non ha piazzato i figli come altri politici hanno fatto. Dunque, secondo te, pubblici, una campagna diffamatoria di Libero onesta, è una campagna bene. Diffamatoria di Libero del Giornale. È una campagna in cui si vogliono mettere in mezzo persone e lui è il è nome un'inchiesta più eclatante. Giornalistica, punto. E lui, ma dov'è l'inchiesta? È sul un'inchiesta. Fatto che il signor Occhetto, allora qual è la colpa di Occhetto? Allora, non voglio passare per difensore della fermo casta lì, perché fermo non sono lì, tale, c'è tempo, ma c'è tempo. Ma come c'è tempo? Solo diciamo la verità, c'è tempo. Ma quale tempo c'è? Non c'è tempo. Tutto il tempo che vuoi. Ma non c'è nessun tempo. L'hanno ormai sputtanato. È finito il tempo, è chiuso. Hanno sputtanato un uomo per chi bene. Chi se ne frega, fermo. Non la si può pensare, si può anche non pensarla come lui, ma è un uomo ma la vuoi finire bene. Di fare il comizio, che siamo all'inizio della trasmissione? C'è tutto il tempo possibile, stai non calmo, c'è più stai tempo. Fermo. Ha distrutto una persona, ma non c'è più tempo. Basta, chiudi la clera, arrivederci. David? Sta facendo molto discutere, non solo in Trentino ma anche nel resto d'Italia, un'intervista che è stata concessa alla Zanzara, è stata rilasciata alla Zanzara da un signore di Casa Pound che si chiama Bonazza, signor Bonazza, che è il primo consigliere comunale di Casa Pound in Italia. Scusami, ho i brividi. Vabbè, io non signor andrò mai Bonazza, più a Bolzano, non ci andrò. Dai, vabbè, diciamo, sì. Gli abitanti di Bolzano se ne faranno una ragione. È un posto meraviglioso e sono gente civile e democratica, ma siccome c'è quello lì... Vabbè, è un consigliere comunale, il sindaco di centrosinistra dovesse essere contento. Il signor Bonazza ha detto che con Mussolini l'Italia andrebbe molto meglio. Vogliamo ricordare questa intervista che sta alzando un grandissimo casino da quelle parti, anche se molti si dimenticano da dove ha origine questa intervista, queste frasi, amici miei. Comunque, Bonazza, se oggi ci fosse uno come Mussolini in Italia, le cose andrebbero meglio, secondo te? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. Cioè, con un Mussolini oggi l'Italia andrebbe alla grande? Assolutamente sì, penso che questo è una cosa che pensa la maggior parte del popolo italiano. Ancora Bonazza, sono fascista. Ti dichiari fascista o no? Beh, perché no, anzi. In che senso perché no? Come perché no, scusa? Perché no, perché potrei tranquillamente dichiararmi fascista, sì. Ma perché non c'è niente di male a dichiararsi fascisti? Cosa ci dovrebbe essere di male? Addirittura qualcuno vorrebbe, credo i gruppi di sinistra in Trentino e in Parlamento, denunciare, anzi lo hanno fatto, credo, denunciare alla Procura della Repubblica per apologia di fascismo questo signore Bonazza. Molto bene, molto bene, molto bene. Fascismo non è stata una catastrofe. Per l'Italia il fascismo è stato una catastrofe, o no? Ma non mi risulta, insomma, visto che ancora oggi ci sono alcune leggi del fascismo, alcune strutture del fascismo che vengono portate avanti. Nel 2015 funzionano sicuramente meglio di altre delle cose. Castronerie che vengono fatte oggi. Gasparri chiede 500.000 euro a Fedez. Ieri alla Zanzara, grande annuncio, la lotta continua. Il mio avvocato del Foro di Roma ha oggi inoltrato ai rappresentanti di Fedez, anche Fedez verrà inoltrato, un atto, una richiesta in cui noi abbiamo chiesto 500.000 euro di risarcimento. Se un coniglio sta a 100.000, un maiale vorrò mettere a 500.000. E intanto al Parlamento europeo Gianluca Buonanno dice al ministro degli esteri europeo Mogherini che non conta. Sentite. Io penso che per voi comunisti, che vi piacciono tanto la povertà, l'insicurezza, il disastro, forse talmente vi piace tanto che volete riprodurlo ancora in questa Europa. Allora io le dico, non dico più la parolaccia perché l'ho garantito a Schulz, lei non è che non conta un emerito C, lei non conta una beata minchia, grazie. E meno male che non voleva dire una parolaccia. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Allora, c'è un cardinale in Lettonia. Un cardinale lettone. Adesso vediamo le notizie che vai a trovare. No, è pazzesco. Un cardinale lettone che si chiama Pujats, credo che si pronunci così. Io non capisco perché il Papa non intervenga su queste cose qui. Dovrebbe intervenire subito, immediatamente. Questo signore dice che è meglio Hitler e Stalin. Sono meglio Hitler e Stalin dell'Unione Europea che è sodomita. che è sodomita. Neppure i regimi di Hitler e Stalin osarono mettere la sodomia al centro della politica di Stato. Purtroppo questa infamia è divenuta realtà nell'Unione Europea. La nostra Costituzione si fonda sulla famiglia normale. L'Unione Europea ha lanciato una crociata contro la fede cristiana. Questo gentile signore dice anche che l'omosessualità è una assoluta depravazione del comportamento sessuale, una innaturale forma di prostituzione. Allora, io non capisco perché il signor Papa Francesco, che omaggiamo, ci inchiniamo e tutto, non prende a calci nel culo questo cardinale, essendo un cardinale, Non, diciamo che non potrà mai fare quel che tu evochi. Assolutamente, ovviamente non in, non in modo, come dire, no, materiale, non in modo così lampante. Modo però spirituale. Dovrebbe mandarlo farlo. Semplicemente a fare in culo. Un attimo, è 800 24 00 24, con un grande ospite. Traffico veicolare. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Fermi tutti. Mario Capanna è con noi. Fermo là, Parenzo, fermo. Buonasera Capanna, buonasera. Ciao giovani. No, aspetti che si sente male. Accosti noi un siamo po' la... i giovani oclocratici, eh? Accosti la cornetta alla bocca, se possibile. No, ma io vi sento benissimo. Adesso sentite meglio? Beh, insomma, così. Capanna, allora, noi non pronunceremo quella parola, C'è un accordo, Perfetto, solito... perfetto. Se no io metto giù la cornetta, lo sapete. Un accordo fatto. Allora, perché le piace tanto Papa Francesco? Mi scusi, che cosa ha detto di tanto entusiasmante negli ultimi tempi, caro Capanna? Iniziamo così. Sì. Allora, perché sugli aspetti, diciamo, religiosi, aborto, contraccezione, eccetera, può anche avere degli atteggiamenti conservatori. Però... non fa mai giudicare, ma sulle questioni, diciamo, etico, politico, economiche, ad esempio la battaglia contro la fame nel mondo, la battaglia per la giustizia sociale, per le pari opportunità. Ma qual è la frase che l'ha fatta entusiasmare di più? Arrivo subito, no? A mio avviso è di gran lunga più progressista di qualsiasi attuale leader di centrosinistra, di qualsiasi sindacalista. Dice anche delle banalità spaventose Papa Francesco. Io su questo non sono tanto d'accordo. Usa un linguaggio molto semplice, ma davvero con grande spirito di verità. Ma insomma, lei mi è diventato papista all'improvviso? No. È diverso, dico dopo perché. Ma la frase che mi ha fatto innamorare Qual è? È quando, rivolgendosi all'attuale sistema finanziario speculativo della globalizzazione, ha detto: questa economia uccide. Questa economia, quello mesi fa l'ha detto, era rimasto. Testuali parole, esatto. Questa economia uccide. E purtroppo, ha ragione da vendere. Ha ragione da vendere. Ma scusi, mi è diventato papista lei? No, queste cose io. Ma non lo dico per iattanza, l'avevo. Cioè, sta dicendo che il Papa è iattanza. Nei libri da molto tempo. È il Papa che copia da lei. Il Papa mi ha copiato, per carità, no? Però quasi. No, però dico, è molto bello che ci sia una sintonia di questo genere. Tra lei e il Papa. Tra due persone che sono, ovviamente. Però lei non mi pare. Il Papa sarebbe stato di Democrazia Proletaria, secondo me, se fosse stato in Italia. Che dice lei, Capanna? Ma guardate che mica si può escludere. Non si può escludere. Allora, però Capanna, lei dice questa economia uccide. Ma come, il Papa non mi pare che lei sia sul lastrico, come dire, non ho pronunciato quella parola. Non mi pare lei sul lastrico, signor Capanna. Vedete una cosa. Manco voi, se per questo e me ne rallegro, no? Bene o male, vogliamo tornare alla famosa frase. Quale frase? Anche gli ascoltatori ricorderanno. Nella precedente trasmissione della Zanzara, dove mi avete interpellato. Sì, assolutamente. Dove avete sprecato il tempo in futilità. Io già lì riportavo alcuni dati, no? Che danno ragione a questa. No, però scusi, posso fare una parentesi, apro una parentesi e poi la chiudiamo. Per quella famosa vicenda di cui non pronuncia il nome. No. Quale multa è stata data al signor Gilletti? Gilletti sempre con due L. Lei ne ha conoscenza? Per la vicenda del... quella famosa vicenda del di cui No, non si pronuncia il nome. No, guardate che state rischiando. Stiamo rischiando. Abbiamo detto Vitti. No, nemmeno Vitti. Si è beccato una multa di 25.000 euro da parte della RAI e ovviamente Begli sta. Ma no, aspetti un attimo, aspetti un minuto e 40. Stavolta voglio io un minuto e 40, Capanna, un minuto e 40 di tempo lo voglio io, un minuto e 40 come d'accordo. Spiegalo. Allora, 25.000 euro, ma è una follia 25.000 euro. Cioè, oppure per lei è addirittura troppo poco, a Gilletti. Beh, fosse dipeso da me, gliene avrei dato come minimo il doppio. Addirittura perché, il doppio, per aver buttato un libro per terra. Dai, su. Un gesto di tipo nazistoide, come lui ha realizzato, e non si è mai visto nella storia della televisione. Scusi, italiana. Per un gesto per un gesto nazistoide ci va sul rogo, no, anche. Non c'è con i libri. C'è il carcere magari, o no? Ma quella suo atteggiamento finirà sui libri di storia del giornalismo, nel senso che verrà puntato come esempio negativo. Ma non credo cioè come un conduttore televisivo non deve comportarsi. Beh, fosse per lei andrebbe cacciato, questa è la realtà. Allora torniamo al Papa. Aspetti, ma fosse per lei andrebbe cacciato o no? Papa, che è democrazia proletaria. Fosse per lei andava cacciato o no? No, ma è bella questa idea di parente. Il Papa che probabilmente sarebbe stato da giovane prete. Ma l'abbiamo detto questo. Proletaria. Oh, sì. Ma guardate che non è uno scherzo. Perché noi, tra i nostri 640.000 elettori eroici. Vabbè, ma adesso non parliamo di archeologia. No, quanti di quelli hanno il avevamo una grande percentuale, ad esempio, di preti operai delle. Vabbè, italiane. Ma è roba vecchia, roba che ha rovinato l'Italia. No, è roba vecchia, roba importante. È roba vecchissima. Perché il Papa ha ragione. Vabbè, ma il Papa ha ragione, l'abbiamo detto perché il Papa ha ragione, perché questa economia uccide. Io ripeto, lei non è rimasto ucciso da questa economia. Questa economia, questa società, le garantisce un certo reddito, come sappiamo. Allora posso invitarvi a fare uno sforzo di ragionamento? È impossibile. Beh, no, diamo un minuto a questo ragionamento. Un minuto e 40 secondi. Seguitemi. Sì, seguiamo. Un minuto. La tragedia sì, è che noi non riusciamo più a concepire un sistema economico diverso da questo capitalismo che ammazza. No, il capitalismo questo capitalismo ammazza. Questo capitalismo ammazza. Mentre noi stiamo parlando. Allora, è aperta Expo. Quante persone muoiono? Expo nutrire il pianeta. Sì. Ricordo di avervi già detto, ma sono felice di ripeterlo. Sì, ripetiamolo. Per nutrire il pianeta, cioè dar da mangiare a quelli che muoiono di fame, non c'è dubbio. Un miliardo, ai bambini sottonutriti e così via, la FAO documenta come con l'attuale produzione agroalimentare, quindi senza bisogno di OGM, di altre diavolerie, siamo in grado di sfamare due volte la percentuale di abitanti del pianeta. Vabbè, invece perché che succede? Esatto. Ma un momento, quindi, avendo un surplus agroalimentare, la gente muore di fame. E perché muore? Perché il profitto dice, io a questi non glielo posso regalare. Sì. E siccome non hanno i soldi per comprarlo, devono morire di fame. Sono poveri. Devono morire di fame. Sono cavoli soldi. Allora, però aspetta, fermo tutto, un minuto di pausa. No, un momento. Domando voi due. Sì. Non è questa un'autentica, vera e propria arma di distruzione di massa? No. Però no, scusi. No. Aspetti, Capanna, siamo arrivati al dunque. Allora, e non abbiamo pronunciato la parola. E non abbiamo pronunciato la parola. Lei ci deve rendere omaggio di questo. No, fermo con questa parola, fermo. No, ho detto che non l'abbiamo mai pronunciata. Perché lei non vuole rispondere? Rispondere alle domande che le hanno fatto sui papponi delle pensioni e ho detto pensioni, perché non vuole rispondere alle domande? Perché io ho già risposto in innumerevoli sedi, comprese in quattro trasmissioni. Ma la chiamano vostre. Pappone? La no, chiamano... E siccome odio ripetere. No, ma la chiamano Pappone vorrei, adesso. No, vorrei che gentilmente tornassimo. No, aspetti, al ma perché la chiamano? La chiamano Pappone? No, la chiamano Pappone? E vabbè, a me che me ne frega, uno può chiamarmi. Ma poi lei ha detto a Libero che non vuole rispondere se non le. No, ragazzi, gli accordi erano chiari. No, dobbiamo abbiamo già parlato del Papa. Allora, la nostra conversazione. No, se abbiamo fatto un accordo rispettiamo l'accordo. Allora, la nostra conversazione finisce qui. No, torno no, un accordo. Di avervi sentito. No. Come va il ricorso? Il ricorso come va? Mi congratulo. Il ricorso come va? Aspetta, e mi congratulo per la vostra, come dire, piacevole, sebbene momentanea, temporanea trasformazione. Sì. Non c'è nessuna trasformazione. Da due giornalisti oclocratici. Però scusi, vedi che lei torna, è lei che torna. Fomentano la folla che non ragiona. No, certo. Per un momento avete parlato di una cosa seria come. Va bene, però un attimo, mi dia un minuto. Dunque, Capanna. Io vi saluto. No, fermo lì, 10%. Restituisca il 10%. Fermo. Restituisca il 10%. Capanna. Marione. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. No, un momento. Ah. Fossimo fossimo stati negli anni 60, una persona come Cruciani sarebbe stata presa a bastonate. A bastonate. Lui e la sua radio di merda. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Sì, pronto. Le caguli. Senza controllo sanitario. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci. Claudio da Roma, iniziamo la sarabanda. Claudio, alt, fermi tutti. Che c'è? Che c'è? Fermo, un momento, un minuto e 40 secondi. Okay. Senti, Cruciani. Vabbè, fammi sentire questo. Dai, ogni tanto ci vuole qualcuno che ti rimette un po' sulla strada giusta. E, ti dico subito perché. In pratica te hai subito criticato il cardinale sulla sodomia, l'Europa sodomita. Beh, ci mancherebbe eccetera. Altro, ci mancherebbe altro. No, scusa, ma cioè, chiunque sa che la Chiesa Cattolica i sodomiti non li sopporta proprio. La che vuol dire, non scusa, non ho capito. È uno dei fondamenti, diciamo, degli scritti di San Paolo, eccetera, eccetera, in cui la sodomia viene assolutamente ritenuta una deviazione. E allora? Allora il cardinale ha fatto anche, diciamo, cioè, secondo te questo tizio cardinale Lettone, che andrebbe cacciato a pedate nel sedere dalla Chiesa, che sostiene che l'Europa di oggi è peggio di Hitler e Mussolini perché ha introdotto l'omosessualità, la sodomia, eccetera, non va cacciato secondo te? Allora, è davanti a tutti il fatto che l'Europa abbia sodomizzato popoli interi, la Grecia, l'Italia, tutti sodomizzati. No, non è capito, ancora non è sodomia, quello il senso. La non sodomia è alla base dell'Europa. E poi, vabbè, c'è il fatto dei gay. Il fatto dei gay, il cardinale segue solo i dettami di San Paolo. Cioè, tu sei d'accordo, chiunque, ma lascia perdere quello le tue lezioni di dottrina. Voglio dire, sei d'accordo con questo tizio? Il cardinale, scusa, che deve fare? Deve diventare frocio, non lo so. Ma che vuol dire che deve diventare frocio? Questo signore ha detto, e poi non ci restiamo oltre perché è un cardinale lettone, neppure i regimi di Hitler e Stalin osarono mettere la sodomia al centro della politica. Infatti, non assolutamente la sodomia c'ha del tutto ragione. Ha ragione. Tu stai dicendo da Roma oggi nel 2015 che il cardinale ha ragione nel. Ma ha ragione, ma è chiaro. Cioè, è chiaro che l'Unione Europea promuove la sodomia. Ci fai o ci sei, diciamo. Non so, cioè, se ci fai o secondo ci te l'Unione Europea promuove la sodomia? Non ho capito. La Grecia l'hai visti come sono. No, ma lascia perdere, quella è una. Quella, ho capito, ma quella è una. Dai, su, dai. No, ma quello parlava di un altro tipo di sodomia, non la sodomia economica. Vabbè, la sodomia economica, chiamala un po' come te pare. Io la chiamo fisica. Parlava dei gay. Sì, ho capito, però anche quella purtroppo è sodomia. Vabbè, e Claudio, che stanno a capo dell'Europa, cioè, stanno sodomizzando anche l'Italia. Va bene, ciao Emilio da Pescara, dai. Ok, ciao. Dimmi. Ciao Cruciani, ciao. Emilio, dimmi, dai. Sì, ti sento. Volevo dire a quel grandissimo Lecchino del tuo collega del PD. Lecchino lo dice a qualcun altro, grazie. E non sono del PD, Somaro. No, vabbè, dai, forza. Allora Somaro, bisogna mettere Somaro. Somaro lo dice a qualcun altro. Tu sei un Somaro. Io di Emilio conosco solo Emilio Trucco. Gli altri mi fanno un Lecchino. Ce la giochiamo. Comunque, Lecchino lo dice a qualcun altro. Sì, ma lascialo parlare. Dopo tutti i disastri che ha fatto il PD. E Lusi, e D'Alema, hai ancora il coraggio di. Ma che c'entra adesso? Ancora il coraggio questa di. Senti, questa Emilio, gente. Innanzitutto devi parlare da un posto dove si sente, perché non si sente assolutamente. Ma questa gente chi? Sto fermo con la macchina, sto fermo. Non con la testa devi stare fermo, ma difende chi? Chi difende? Ma che stai difendendo ancora Occhetto? Ma ti rendi ho conto? Detto che Achille Valdese, Occhetto, ho detto che Occhetto è una persona per bene, che non ha mai rubato, non ha proprietà. Lasci parlare o no? Ma è un Somaro. Io con 1000 euro me la sono comprata la casa, evidentemente con gli altri. Ma che colpa avrebbe Occhetto? Ma sentiamo un attimo, sentiamo il cialtrone. Che colpa avrebbe Occhetto? Vediamo, rimettiamo le cose un attimo in ordine. Che colpa avrebbe? Qual è la colpa di Occhetto? Questo qua sta a dire lui che faceva il perbenista. il signore che si metteva a piangere alla stregua della Fornero. Lui ha fatto di lavoro ha fatto il politico di professione, lo ha fatto bene, non ha mai rubato, non ha mai rubato, non si è arricchito. Ma cosa c'entra D'Alema? Emilio, tu stai contestando che cosa? Il fatto che lui dica con 5.000 euro, con 6.000 euro al mese? Ma difendere sta gente del PD che ha fatto disastri non da è questione di PD. Ma non è questione di PD. Lascia perdere, questo è il tuo giudizio sul PD che lo fa disastri. Anche, guarda, lo direi anche del vitalizio ad Almirante. No, ma lascia, restiamo. Direi la stessa cosa, direi la vi sorprenderò, ma io sono... Sorprendici stasera, vai, grande! Ed un salame sì, però cambia registro perché dici sempre salame. Tutti non possono, non possono essere tutti salami. Beh, no, ma salame, questo che non ragiona è un salame. Poi può dire che non è d'accordo con me. Io non ragiono. Io ti ho dato dei nomi ben precisi. Ma nomi, io ti ho detto che sulla questione del vitalizio, sulla questione difenderei anche, figurati, Almirante che è distante da me. Che è morto, poveretto. Pace all'anima sua. Per me i vitalizi vanno cancellati. Non vi voglio far perdere tempo. Ti dico un'ultima cosa. Io ho fatto già 35 anni di contribuzione, ok? E con la vecchia, e quando sono cominciato a lavorare a 14 anni, ma un'altra questione. Dovuto andare in pensione. Come cazzo è possibile che uno per 4 ore di merda di lavoro, questo qui se ne va in pensione con 6.000 euro al mese? Ma quale 4 ore? Dici? Quello ha fatto per una vita il deputato. Allora, poi si può dire che è sbagliato il sistema, è d'accordo, infatti l'ha cambiato. Quello sta dicendo. Non sta dicendo questo. Si può dire che il sistema è sbagliato, ma Occhetto non ha rubato a nessuno, non si è arricchito. Ha fatto solo politica. Ha fatto solo politica, a differenza di altri che facendo politica facevano anche 4-5 lavori. Ciao Emilio, ciao. Valerio, provincia di Ferrara. Valerio, provincia di Ferrara, dai. Sì, buonasera, direttorissimo. Dimmi. Io faccio una domanda, ma chiedo però di rispondere Parenzo sinceramente, perché abbiamo sempre il vizio di avere la memoria molto corta. Allora, cito solamente lo scandalo Unieco del 92 con le cooperative. No, però non torniamo agli scandali del 92, Valerio, su. Non era quella la domanda che volevo fare. Non è domanda, stai parlando di una roba che la gente non ricorda. Su, che cosa vuoi dire? Dai. Era solamente perché volevo chiedere a Parenzo, che è un grandissimo giornalista, un grande provocatore, allora, lo apprezzo per questo. Provocatore però, un corno. Sinceramente però, Parenzo, non puoi dire che Occhetto non ha mai ha fatto solamente politica, è giusto che prenda 6.000 euro e addirittura con quei 6.000 euro deve mantenere due figli. Dai, con i soldi fa quello che gli pare, veramente no? Campata per aria, dai. Va bene, Valerio, ciao. Andiamo a Milano, Alessandro. Mi dice cosa c'è? Pronto? Dimmi, Alessandro, dimmi. Ah, scusa, stavamo parlando in famiglia, mi fa incazzare. Ieri mi hai fatto incazzare tu, ad esempio, però volevo dire, porco Giuda. Dimmi. Perché? Perché non puoi parlare in trasmissione viva le canne qua la No, non ho detto ascolta. Mai viva le canne, mai. No, hai detto marijuana libera. Così ho detto marijuana legalizzata, è diversa la cosa. Che cazzo vuol dire? Mio figlio ascolta la trasmissione da quando è 2 anni che ascolta la trasmissione. No, però scusami, ho detto io non dirò mai che è giusto e come dire, non consiglierò mai nessuno di farsi le canne. Meno male. Prima cosa, seconda, ho detto di fronte a un ascoltatore che mi chiamava dicendo che fumava ogni giorno eccetera, ho detto che la marijuana, l'erba, la droga leggera va legalizzata, non è una cosa che dico per la prima volta, lo dico da tempo, dunque non vedo quale il tema è come la prostituzione va legalizzata. Sì, ma certo non sto invitando i ragazzi a farsi le canne, ma dico, ma sei impazzito? Ho capito male. Vabbè, ciao allora. Alessandro, ciao. Ma ciao. che ciao, digli a Parenzo di svegliarsi un po'. Sta qua. Svegliati. È moscio. Ma tu sei moscio in testa, Bacato. Bacato cosa? Bacato Parenzo, in testa io sono sei. Uno dei membri fondatori del Riccardo da Roma Fans Club. Mamma quindi, mia, che onore! Ma ecco, che onore! Uno ecco, dei quindi, membri che ha fondato, mamma mia! E dunque parliamo, ti devi svegliare, questo dice. Quindi, Parenzo, ci hai fatto 2 palle così, sei moscio, ti vuoi riciclare, ma moscio perché? Sei tu, riciclare no, dove? Moscio sei tu in testa. Perché deve finire sei. La zanzara? Devi ricollocarti da qualche altra parte? Ma tu ti devi ricollocare chissà dove. Vabbè, ciao Alessandro, ciao. Ma io sono bagato in testa, ma capisco che se bagato in testa che bagato in culo, scusi. Beh, professore, mai dimentico, mai dimenticato, mai dimenticato. Piccola glossa. Maurizio da Latina, vai. Pronto, ecco, buonasera, buonasera a tutti. Dimmi. No, volevo dire una cosa a Parenzo, perché lui, con lui ci si può ragionare un pochettino, ma non è che rischiamo di fare un danno tipo la Fornero, nel senso che ci siamo anche, no, non io personalmente, ma tantissimi operai e impiegati che sono stati in cassa integrazione con l'80% dello stipendio. Vabbè, per adesso, anni e percepiscono una pensione dell'INPS per anni, sì. Non è che se andiamo a vedere veramente chi ha versato i contributi, poi sicuramente ci saranno di mezzo anche queste persone. No, di cosa stiamo parlando? Scusa, ma allora, di cosa stiamo parlando? Si parla che praticamente l'ex di Democrazia Proletaria, adesso sì, Capanna, è così? Ecco, ha pagato tot contributi e prendo. Ma questo purtroppo è successo anche a operai, impiegati e quadri, perché migliaia e migliaia di persone stanno in pensione con contributi versati dall'INPS stessa. Perché sono stati messi in cassa integrazione per 20 anni, 30 anni. Sì. Perciò la mia paura, Parenzo, io da lei. Ragioniamo un attimo, perché questo vento di populismo, bravo, rischiamo di farci male un po' tutti. Bravo, no? Bravissimo, certo. Ma no, qui si parlava di un'altra cosa, si parlava della riduzione nel caso di Capanna del 10% del suo vitalizio richiesto dalla regione. Lui non vuole aderire a questa cosa e ha fatto ricorso. Dopodiché, un'ulteriore inchiesta di Libero del Giornale l'hanno definito come il pappone, uno dei papponi dei vitalizi, perché ha versato tot e ha incassato finora. Ma noi avevamo i metodi democratici per contrastare, non l'abbiamo fatto all'epoca. Fermi tutti, adesso... fermi, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Lassativo Parenzo, e alla defecazio non ci penso. E adesso la borsa. Lo facciamo 1440 volte al giorno. Alla Welcome Italia siamo fatti così. Diamo sempre il massimo per fornire i migliori servizi di telecomunicazione. Così anche oggi abbiamo controllato una volta al minuto la stabilità delle linee di ogni nostro singolo cliente. E nel frattempo abbiamo risposto al 97% delle chiamate in 3 squilli, perché il tempo dei nostri clienti è prezioso. Fidati, possiamo farlo anche per te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in 3 squilli. Con 3 tipi di trazione, Nuovo Vito può arrivare ovunque. Proprio come questa offerta. Da 150 euro al mese per 47 mesi con aria condizionata! Anticipo 3.900 euro. TAM fisso 3.9. TAEG 5.2. Riscatto 8.259 euro. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fino al 31 agosto. Fogli informativi in concessionaria. Nuovo Vito. Il cambiamento ha il suo leader. Nella fase economica attuale non so cosa fare per il mio patrimonio. Amundi lancia Amundi Funds Patrimoine, un investimento flessibile che mira ad offrire una performance duratura adattandosi ai mercati. Con un obiettivo annualizzato del 5% oltre l'indice ONIA, affidate i vostri risparmi ad Amundi. La fiducia va meritata. FIDER, che investe almeno l'85% nel fondo master. Orizzonte di investimento minimo consigliato 5 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima dell'adesione, leggere il KID e il prospetto. Bambini, portate la mazza da baseball che sfasciamo la macchina? Non rottamare la tua auto. A maggio gli ecoincentivi Ford sono per tutti. Ford EcoSport a 14.950 euro. E in più anticipo 0, TAN 3.95, TAEG 5.38. Anche sabato e domenica. La Zanzara. Di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Mamma mia, che orrori, che orrori. A proposito di quello di cui parlava prima l'ascoltatore, a proposito di figa, ho letto da qualche parte che c'è l'ennesima inchiesta sui matrimoni bianchi, cioè sui matrimoni che non vengono più consumati, e un sacco di donne si lamentano, caro Parenzo, cioè si lamentano un sacco di donne, ma secondo me si lamentano anche un sacco di uomini. Leggevo prima, non so dove, sull'Huffington Post, no, le donne che vivono senza il sesso dei mariti, chiedendo sesso inutilmente al marito. Pippe, molte pippe. È una soluzione. Invito di nuovo il il Papa a prendere a calci nel sedere questo cardinale, il quale ha detto che l'Unione Europea è sodomita, peggio di Hitler e Stalin, cacciare subito. Ma se il Papa non interviene su queste cose, su che diavolo interviene? Scusa, io non capisco. Cioè, non è che siamo... tutto mi pare il Papa. No, sì, interviene su tutto, ma se non interviene proprio su queste cose, non riesco a capire il senso. Allora, eravamo con qualcuno? No. Luigi da Milano, vai Luigi, 800240024, Luigi. Ciao Giuseppe. Dimmi. Io volevo fare una domanda, ma Parenzo è così o fa le punture? Perché no, ti inviterei, così. Come tu inviti il Papa a prendere a calci nel sedere quell'arcivescovo, inviterei te a prendere a calci nel sedere il tuo sodale, perché dice delle cose che sono... Per esempio, cosa dice? Però andiamo cos'è su... che non le va giù? Sentiamo. Sì, allora, cos'è? Il sentiamo. Problema è molto semplice. Io ho sentito all'inizio della trasmissione che Parenzo sta inequivocabilmente dalla parte di Occhetto. Ah, senza dubbio alcuno? Senza dubbio alcuno. Allora, errare un persona manuetto, onesta per bene che ha diritto a prendere quel vitalizio, no, perché le regole erano quelle, vanno cambiate. Non ha soldi da parte, non ha rubato, è un politico per bene, ha diritto a prendere quei soldi. Assolutamente no, e mi lasci parlare per cortesia, perché il problema glielo presento in un altro termine. Io faccio parte di un'azienda di quelle che non è pagata dalla pubblica amministrazione senza che siano stati contestati i servizi e i prodotti che sono stati venduti, non veniamo pagati, facciamo delle fatiche, dei sacrifici inauditi. È giusto, mi lasci parlare per tenere aperta l'azienda, per distribuire ancora posti di lavoro. Ha ragione. Ho ragione, questo qui viene a dire che lui deve mantenere i suoi figli. No, ha detto un'altra cosa. Ha detto che fare il parassita. Ha detto una... non fa il parassita. No, Parenzo, non... lei deve lasciar ha parlare. Detto una... lei sta dicendo una stupidaggine. Devi stare tranquillo, lo lasci parlare o no? Lei deve lasciar parlare. Lascialo parlare e poi replichi, dai, forza. Allora, il problema è che continuamente giustificare questi atteggiamenti, prima o poi arriveremo a qualche cosa di veramente pesante, perché la gente non ne può più. La gente fa una fatica della Madonna per portare a casa quei quattro soldi che sono frutto del loro lavoro, e da quel lavoro si ricavano le sostanze per questi parassiti, che sono dei parassiti che vivono alle spalle degli altri, e lei ha il coraggio di dargli ragione. Allora, ma si vergogni. Allora, si vergogni lei. Non mi rompa i coglioni. Allora, la questione è radicalmente. Scusami, se mi attacca rispondo. È radicalmente diversa, perché lui mischia i casi. I vitalizi così come sono vanno cambiati. Vecchie leggi sbagliate. Non vanno cambiati, vanno tolti. Va benissimo, sono d'accordo con lei. Dopodiché, d'accordo. Possono cambiare. Ridiscutiamo. Tu dici che è giusto il vitalizio. Quelli per chi del passato. No, io dico, io rispetto per chi fa politica, anche onestamente, decide di farlo per tutta la vita e viene eletto. Magari vanno riviste le quote, ma per me è giusto che uno riceva un piccolo vitalizio. Nel caso di Occhetto, però, che ha fatto politica nella Prima Repubblica con quelle regole che è vero che ci sono dati loro, ma in cui la politica era come in tutti i partiti, democristiani, socialisti, tutti. Cosa vuol dire? Se tutti rubano, allora nessuno non rubava. Occhetto non ha rubato, ha diritto a prendere quel vitalizio in base a quelle regole. Non interessa se Occhetto ha rubato. Il concetto, ma invece, scusi, tutti non è, va bene lo stesso. Ho detto non che bene, si può cambiare oggi il sistema, ma lui ha rivendicato il fatto che avendo lavorato per tutta la vita facendo politica, ma tu è un capisci lavoro. Tu capisci che io capisco la rabbia della gente. No, non solo la rabbia, è una devo però, essere pagato, ha capito? È un'altra cosa, è un'altra questione. La questione è molto semplice. Siccome le pensioni degli italiani vengono toccate continuamente, le pensioni degli italiani si toccano, come è evidente da quello che sta succedendo in queste settimane, le leggi toccano le pensioni degli italiani. Quasi mai i vitalizi dei parlamentari vengono toccati. Allora, che uno venga a dire va benissimo, io a me mi serve per sopravvivere e ci crediamo, devo mantenere due figli disoccupati, a qualcuno potrebbe girare i coglioni. Però quello ma che è la normale gente che non sia capisce, così, perché che le pensioni me... e i redditi degli italiani vengono colpiti. Lì, chissà perché i vitalizi dei parlamentari non sono mai stati colpiti, anche quelli del passato. E uno dice sono diritti acquisiti, ma un sacco di diritti acquisiti degli italiani sono stati modificati. Tu dici non so come campare d'accordo. E peggio, non mi interessa, un sacco d'accordo. Di gente ha avuto lo stipendio decurtato, è rimasta disoccupata per un furfante che si ma è nessuno che vuole si è arricchito. Vabbè, questo vabbè. È il messaggio. Vabbè, io ti sto dicendo, secondo io la penso così, poi capisco che la gente si arrabbi, ma Maurizio da Genova così. Maurizio da Genova, vai. Penso che non ha rubato, ragazzi, e quei soldi se li merita. Sto apprezzando dimmi. Vi sto apprezzando. Dimmi, dimmi, dimmi. State andando alla grande. Allora, tanto vi sono levato un bel vaso di Pandora, no? Il coperchio, tutto il resto. Allora, dunque, Parenzo ha ragione su Occhetto, a mio avviso, perché a differenza di Capanna, sicuramente affronta la questione in maniera ben diversa e con una onestà intellettuale, certo. Vabbè, che dice che se, quella di Capanna, che se li tagliassero il vitalizio, che è una contraddizione vivente, ok? Sì. Capanna si contraddice, Occhetto semplicemente mette la sua testa sul capo e dice: se volete tirare la cordicella alla ghigliottina, tiratela, che vi devo dire. Allora? Tutto lì, primo. Secondo, un'altra cosa, ragazzi, state facendo un gran bel casino, no? E continuate su questa strada. Cerchiamo, io penso che poi alla fin fine l'obiettivo sia quello che di portare nelle coscienze delle persone un pochettino di... Vabbè, Maurizio, così, ti saluto, tutti i ciao. Sistemi possibili. Ciao ragazzi, andate ciao. Avanti. Ciao. Complimenti per il programma, vi seguo sempre, dalla mattina alla sera. Andiamo a Milano da Marcello. Vai Marcello, vai. Sì, ciao Cusciani, ciao Parenzo. Ascolta, io oggi mi sento sodomizzato. Da chi? Dal presidente della Ferrovia Nord Milano. Guarda, ecco qua, vado a prendere la cartuccella, Da Lombardo, porca miseria. No, cioè, di anche porca puttana, non è un problema. E guarda, il presidente delle Ferrovie Nord di Milano, che si è dimesso, il signor Norberto Achille, ecco. Beh, carte di credito, alberghi, ecco. Uso di auto con carburante Telepass, arredi ed elettronica, bollette di telefoni cellulari, pay TV, persino scommesse sportive, cioè i soldi nostri. Gli contestano 600.000 euro. Dare un bel vitalizio e 15.000 euro, no, magari di pensione, già che ci siamo. Probabilmente li può avere. Beh, però questo coi soldi nostri ha fatto, questo è diverso. L'Italia sodomizza a questo punto. No, questo ci ha sicuramente sodomizzato, anche perché pare che tutte queste spese pazze del signor Achille siano state fatte in realtà dai figli, soprattutto dai figli, i quali utilizzavano l'auto blu, i telefonini, eccetera eccetera, e dicono le carte che il padre non aveva la forza di mettere un limite a questi figli che succhiavano denaro nostro. Questo era presidente, ricordo, però ti voglio presidente fare di cosa? Delle Ferrovie Nord di Milano. Bene, nominato da chi? Sì, dal centrodestra. Aspetta un attimo, in particolare dalla Lega. Scusami. Sì, ma qual è il problema? Non ho capito. No, qual è il problema? Dal centrodestra, allora qual è il problema? Non facciamo confusione. Qual è il problema? Un minuto e 40 secondi. No, un signore è nominato in un ente pubblico, sì, dal centrodestra, sì, che governa la regione Lombardia da 20 anni, lo ricordiamo. Sì, rubano a destra e a manca qui, però. Non è che rubano solo a destra, rubano a destra e a manca. Certo. Ti voglio fare un regalo, caro ascoltatore. Ferma, resta lì, resta lì, Marcello, un attimo solo. Prendo la linea, aspetta. Aspetta, Marcello. Pronto? Achille? Chi parla? Pronto, Norberto Achille? Chi parla? Sì, sono Cruciani, Radio 24, salve. Buonasera. Buonasera. Senta, le posso passare un cittadino che le deve dire una cosa? No, grazie. Perché no? Non è momento. Però lei dovrebbe rispondere ai cittadini che sono incazzati neri, lei lo sa. I cittadini non sono incazzati neri per questo, hanno ben altro per cui essere incazzati. No, sono incazzati per le spese pubbliche che lei avrebbe fatto, avrebbe fatto. Mi spiace, non sono dell'umore, la ringrazio molto. No, d'accordo, ma è vero. No, una sola cosa. È vero che il problema è soprattutto riguardava i suoi figli, il fatto che lei non riusciva a porre freno ai suoi figli, solo questo le voglio chiedere, sì o no? Non è proprio così. Non è così, ma che è successo? La ringrazio, lei è molto bravo per tirar fuori tutto quanto c'è da tirar fuori. No, ma voi li ha spesi o no quei soldi? Li ha spesi 600.000? Tante cose, arrivederci. Arrivederci. Tante ci cose sentiremo se vuole. No, grazie. Ma scusi un attimo, però questa cosa voglio capire se il problema sono i figli o... Vabbè. Capito Marcello? I cittadini hanno altre cose a cui pensare in questo momento. Altre cose a cui pensare. Te lo volevo passare, te lo volevo passare. Infatti, io la prima cosa che gli volevo chiedere, sai cos'è? È che praticamente, ma se lui, ipotizziamo che avrà un vitalizio, andrà ai suoi figli che hanno combinato tutto sto casino, no? Ma no, ma non c'è vitalizio lì per il presidente, credo, okay. Per il presidente delle Ferrovie. Allora, sì, questo non lo sappiamo perché non lo so nemmeno io, però se c'è un vitalizio di solito passa anche ai figli, giusto? Ma no, ma non c'è in questo caso, ti posso assicurare che non c'è. Vabbè, almeno una sodomizzazione a metà, dai, diciamo. Vabbè, così. Ciao Marcello, ciao. Con noi un personaggio mitologico, senatore campano, dice sempre quello che pensa, speriamo, il senatore Vincenzo Danna, buonasera. Buonasera Cruciani. Come andiamo? Ciao. Come andiamo? Danna, ciao caro. Abbastanza bene. Che dice, i cosentiniani come vanno? ormai sono una categoria in via di estinzione. Ma come una categoria in via di estinzione? Scusa. Io pensavo che lei mi dicesse vivono e lottano insieme a noi. Cruciani, scusami però. No, devo dire la verità. Da quello che vedo in giro, dalla difficoltà che ho registrato nel proporre qualcuno candidato in lista, non ho trovato né i cosentiniani né questa famosa rete diciamo sul territorio, me la sono dovuto cavare come Damiano da solo. Ma scusi, lei è ancora un fedelissimo di Cosentino o no? Cioè crede ancora nella sua innocenza? No, guardi, io sono ancora amico di Cosentino. È ancora amico politico, ormai è finito, dice, è morto. Affidato. Scusi, alla storia, insomma, che c'è Parenzo, che c'è? Un momento, un minuto e 40 secondi. Buonasera Danna. Spieghiamo a chi ci ascolta, ciao caro, che Danna, in una parola, è il grande puparo, il grande burattinaio, il mangia, no, il mangiafuoco, il mangiafuoco. Il mangiafuoco della lista Campania in rete, quella che appoggia De Luca, quella lista dei cosiddetti impresentabili. Questo bisogna, diciamolo, no, come introduzione. No. Come no? Parenzo sta dicendo delle corbellerie. No, come no? Quelli che vengono chiamati impresentabili. E se mi fai parlare io ti spiego. No, però un'altra, una prima domanda è questa. Capisco che dobbiamo fare lo show, però No, ma nessuno show. No, nessuno show. Sei l'inventore della lista. Di persone dobbiamo diciamo. Ma non l'abbiamo detto. Non dico seri, ma almeno. Ma non l'abbiamo detto. Danna, non l'abbiamo detto noi che sono impresentabili. L'ha detto innanzitutto il signor Saviano. Saviano. Guardi. Ti faccio dei numeri. Dimmi. Nelle liste del centrodestra, proprio stamani si è ritirato un candidato che era rinviato a giudizio è vero. Concorso esterno. Sì. Nelle liste di Caldori io ne ho contati 15 tra arrestati, condannati in primo grado e rinviati a giudizio. Ho capito, ma cioè dunque? Uno. Non ho tre capito. Sono nelle liste di De Luca. Nelle liste di Campania in rete non c'è una sola persona rinviata. Cioè sono liste pulite, dici tu? Sono pulitissime, perché il procuratore antimafia Franco Roberti, intervistato in proposito, ha detto finalmente una parola sul rinvio a giudizio, ho capito. Crimine, e io convengo con Roberti, per ritenere inopportuno una candidatura, siamo sempre nella sfera dell'opportunità e non della legittimità, è il rinvio a giudizio. Voi non avete dire 50 candidati della lista di Campania in rete, non ce n'è uno che è rinviato a giudizio. Qualche indagatuccio c'è, qualche indagato c'è. Uno diciamo. Solo. Il signor Malafronte di Pompei, appunto, che Attilio. Assessore comunale, no, fatela raccontare. No, ma la sappiamo, quella dei cimiteri, l'abbiamo già fatta sta roba. Ha fatto inumare una samba in un giorno festivo ed è ed è imputato per induzione alla concussione. Vabbè, ma quello che poi vedete. Cioè tu stai dicendo di domenica ha chiesto qualcosa. Scusami, di Danna, stai dicendo che la lista che appoggia discussa, molto discussa, che appoggia sto dicendo che in tutte che nel centrodestra ci sono indagati, arrestati e condannati. Che nelle liste di De Luca ci sono rinviati a giudizio e che nella lista che io sostengo insieme agli onorevoli Annaccone e Iervolino non ce n'è mezzo. Non ce n'è mezzo, dunque siamo i più puliti di tutti. Siamo no, i più... non siamo più puliti, non faccio sta... hai detto, siamo pulitissimi, siamo lo, più... Lo dico, lo e dico perché a Saviano? Che sai la distinzione tra etica pubblica e morale privata. Sì, più nello o meno, Stato insomma, di diritto sì. La morale risiede nella legge. Ci sono regole per la ineleggibilità e la incandidabilità. Però scusa, adesso non ci addentriamo troppo. Vincenzo, la cosa che voglio chiedere a te è questa qua. Saviano vi ha presentato in sostanza, non proprio voi esattamente. Ma Saviano è uno che racconta, ha una conoscenza per sentito dire che tu sai la persona è la peggiore forma di apprendimento. Cioè non sa un cazzo, non sa un cazzo, dici tu. E poi che gioca a fare licura e la butta lì senza sapere né I né A e né O. Beh, ma gioca. Ha preso a paragone, vive minacciato dalla camorra la lista che non ha rinviato a giudizio. Vabbè, ma scusa, se Danne, Saviano, vive minacciato è completamente campato in aria, dunque non sa niente secondo te. Nel nostro caso ha preso una cantonata. Ma quello vive minacciato, vive insomma, la camorra lo vuole ammazzare. Ma non lo so, ma io non ma entro non so. Nel merito. Io ho fatto un comizio a Caserta in cui ho cominciato con queste parole. Noi i camorristi li schifiamo, sì. Ma schifiamo parimenti i falsi moralisti. Cioè Saviano è un falso moralista, dice. Ma che c'entra? Dicono alcune cose per poterne trarre un vantaggio politico. Dunque è un falso moralista. È un no, però fammi fare una domanda. È un falso moralista? La commissione antimafia a passare a setaccio di vista. Vabbè, ho capito. Adesso non ci una bella relazione. Danna, voglio capire se secondo te Saviano è un falso moralista. Molte volte fa della morale un tanto al chilo. Morale perché un tanto deve correre appresso all'icona, all'immagine che certa sinistra ha costruito per lui. Altre volte fa delle denunce serie e in questo caso è condivisibile quello che dice, ma non è il Vangelo, Saviano. Non è il Vangelo. Senti un attimo, ma non ho capito, quelli che hanno aderito, che sono amici di Cosentino, questa volta come te votano Danna? Sì, votano no, De Luca, scusa. A quelli che erano amici di Cosentino, perché sì. Non lo difendono più, dicono che di non averlo mai né visto. Vabbè, ma né quelli conosciuto. Insomma, i cosentinieri sono tutti candidati nelle liste che sostengono Calderoli. Vabbè, ma se poi ti faccio l'elenco. No, no, per carità, io sto dicendo quelli i cosentiniani veri, diciamo, quelli che sono veramente sono rimasti. Ma non guarda, non c'è. Cioè lui per chi voterebbe Cosentino per chi voterebbe secondo te? Cosentino ha fatto un grande errore. Poiché era un grande dirigente politico, ha sempre dato agli altri, non si è mai fatto una sua corrente, una sua componente. Quando lo hanno arrestato, e non entriamo nel merito è un perseguitato da diciamo detenuti in attesa di un giudizio che è cominciato da 4 anni. Ma è un perseguitato anni. O no? Certo, guardi l'accusa per Nicola Cosentino è cambio di voti, è potente politicamente, ergo ha potuto. Però scusi Danna, lei sostiene De Luca che non c'è concussione, non c'è corruzione. No, ma ho capito, secondo lei è un perseguitato, ma lei appoggia De Luca e De Luca è di centrosinistra, tutto il centrosinistra pensa che Cosentino. Io appoggio tra due governatori, tenga conto che noi parliamo di elezioni amministrative, non parliamo di elezioni politiche. No, vabbè, ho capito. Appoggio una persona che ha le stimmate del buon amministratore e lo ha dimostrato. Vabbè, allora. E non appoggio un'altra persona che ha fallito parte, se non in tutto, in 5 anni come governatore. Allora, fermi tutti che abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Vincenzo Danna, che è stato eletto nel centrodestra a livello nazionale, ma adesso appoggia De Luca in Campania. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Senatore D'Anna deve capire che la gente ragiona qualche volta per schemi piuttosto semplici. Cioè lei se facciamo capire alla gente. No, però aspetta. Fermo un attimo. Se lei è stato eletto col centrodestra al Senato, sì, adesso aderisce ad un altro gruppo e ora invece alla regione Campania appoggia, sì, il candidato di sinistra, la gente resta come dire un po' perplessa. Basta spiegarglielo. No, lei dice quella amministrazione. Io sono coerente col mandato e come parlamentare. Ma quale mandato? Lei è stato eletto col centro governo anche quando Berlusconi ci invitava a votare a favore. Vabbè, d'accordo, ma lei vota per De Luca adesso? Io voto per De Luca perché Forza Italia è completamente scomparsa in Campania. Ma dappertutto. Nelle mani di soggetti che sono stati indicati dal famoso cerchio tragico. Sì. Caldoro è espressione di un coagulo di opportunisti che con i valori del liberalismo e del centrodestra non hanno niente. Perché invece De Luca c'entra lei col centro-sinistra, che c'entra però, lei con De Luca? Ma io voto un buon amministratore. Cioè, ma De Luca è di sinistra? De Luca è di sinistra secondo lei? No. Ma secondo me De Luca sta più a destra di me, certamente di Parenzo. Ah beh, quello sicuro. Cioè, eppure nemmeno. In realtà a lei piace Renzi, secondo me. A lei piace Renzi. Ma guardi, io non giudico le persone dalla simpatia. A me già mi ha fatto fesso Berlusconi, tirandomi dentro ad una pseudo rivoluzione liberale che era molto pseudo e poco liberale. Non voglio fare la parte. Ma lo dice adesso che è caduto. Invece De Luca è un sincero riformatore liberale e tutto, De Luca? No, De Luca può anche avere le sembianze fascistoidi alcune volte, perché è un decisionista, perché fa lo sceriffo, ma è uno che si scorcia le mani, che vuole amministrarla la regione. Vabbè, dall'altra parte abbiamo un giovane signore che usa quello scranno per avere una visibilità nel scenario nazionale. Ma quello tutti, dai. Ma questo ce l'ha in particolare, questo limite. È un ottimo politico, ma è un pessimo amministratore. Noi stiamo votando per il sindaco della Regione Campania. Vabbè, ho capito, però insomma, D'Anna, resta il fatto che lei siede al Senato più o meno in centrodestra, che però non esiste più ormai. Comunque è stato eletto con centrodestra. Ma non l'ho distrutto io il centrodestra. Vabbè, allora, adesso che io posso delle critiche al cerchio tragico in tempi non sospetti. Il famoso cerchio tragico della Pascale, insomma. Solo. Ma ha visto Berlusconi? Tutta quella serie di maggiordomi, camerieri, vallette che sono diventati dirigenti di un partito che si è liquefatto. Ormai non esiste più Forza Italia, diciamola tutta. Pure il Cavaliere non sta messo. Ma esiste il presidente Berlusconi, che potrebbe fare tanto, ma qualcuno gli dovrebbe spiegare che la gente gli racconta una realtà che non esiste più. E beh, lui se la fa raccontare forse. Cioè... è probabilmente poco impedito, un poco distratto da altre vicende, credo che vivi nella Turris Burnia. Com'è? Vive nella torre? Visto, nel bunker, ma non percepisca la realtà. Non percepisce la realtà, ma lei è impietoso D'Anna su Berlusconi, non percepisce la realtà. Io sono un estimatore di Berlusconi, ma gli amici ti parla in faccia. Sono i nemici di Berlusconi, sono i suoi laudatori, quelli che gli dicono che a 80 anni può fare programmi decennali, che Forza Italia con di nuovo lui che scende in campo ripassa dal 10 al 30%. Sono questi il vero danno lo fanno gli altri. Scusi un attimo, ma secondo lei lei ha già detto che De Luca tutto è tranne che di sinistra, per carità di Dio, cioè tutto è tranne che di sinistra. Beh, diciamo che non è proprio un ortodosso. non è un ortodosso, non c'è dubbio. E allora Renzi pure, non mi sembra che questo PD di Renzi, cos'è? Credo che Renzi sconti il fatto che è un uomo di centro, è un riformista moderato, ma deve far conto con una minoranza interna. Ma perché lei non si iscrive? Una concezione anacronistica dello Stato. Ma scusi, perché non passa direttamente al PD lei? non sia mai. Beh, non sia mai, secondo gli me ormai è lì, lì. Mi hanno messo a fare l'opposizione e io resto dove sono. Ma come, lei non è all'opposizione, lei è... Ho votato contro. Ma ho capito. Berlusconi ci invitava. Ma adesso è a braccetto del PD alla regione. Vabbè, l'abbiamo già detto questo. Vabbè, Danna, la ringrazio, arrivederci, grazie. Grazie a lei, ciao, mi saluti ciao. Parenzo, che ho visto poco mortace. Sì, va bene, ti saluto. Perché dorme no, un po'. Dorme. Danna. No, ma perché se... Diciamo no. Che non è una tragedia per l'informazione italiana. Arrivederci, grazie. Simpatico. Molto simpatico, Danna. Allora, andiamo a Padova. Denise, buonasera. Simpatico vai. Come un gatto nei pantaloni, pronto? Ma è simpatico. Buonasera. Dimmi. Ah no, volevo solo dire a Parenzo che ha raccontato questa tristissima storia del politico onesto che se perde il vitalizio diventa povero e ci sono milioni di operai poveri con i figli. Ma lo so, ma cosa c'entra? Ma c'entra, possono insegnare c'entra. Come si compra una casa in 20 anni, perché è vero che non si è arricchito. Ma che colpe ha Occhetto? Mi potete spiegare quali colpe ha? Ma nessuno se no non ci capiamo. Di 6.000 euro di ma non lo paga lei. Come no, ma stiamo parlando di cifre ridicole per l'erario italiano. Questo è il punto. Ah, cifre ridicole per l'erario italiano. Ridicole, totalmente ridicole rispetto al monte delle spese dello Stato. Allora che ci frega di fare? No. Ma il problema non è questo. Si può dire siamo contro i vitalizi. Benissimo, riformiamo. Infatti sono contro i vitalizi. Quello che rivendica secondo me giustamente Occhetto, ma direi lo stesso di Almirante ad esempio, direi lo stesso di una persona a me lontanissima come Almirante, se Almirante fosse vivo e rivendicasse i suoi 2000 Costo, sì, perché è una il vitalizio di... va cancellato. Va bene. Bravo. E allora cosa punto. Fai con Occhetto? Punto e basta. Va allora, vai fino in fondo. Non mi interessa. Quindi togliere il vitalizio Occhetto. Il vitalizio andrebbe benissimo. Cancellato. Allora, vai fino in fondo. Quindi togliere l'Occhetto. Togliere va cancellato il vitalizio. A un certo punto e uno decide il vitalizio. Uno che ha fatto politica per tutta la vita, come si non usava so nella prima Repubblica. Ma tanti italiani hanno lo stesso problema d'accordo, di come campare. Ma se quello ha un diritto acquisito. Non è diverso da tanti altri. Non è diverso da tanti altri. Si toglie il vitalizio Occhetto. Ma no, Occhetto. Per me i vitalizi vanno cancellati. Ma non sono tanti rispetto ai milioni di italiani. Sarebbe come non se dicessero tanti. Togliamo la pensione a uno che ha versato. No, non è la stessa cosa. Perché giustamente non è una pensione, il vitalizio è un'altra cosa. È una sorta di concessione che non esiste però. In nessun paese mondiale. Non esiste. Senti, facciamo una cosa. Io adesso voglio chiamare, vediamo se risponde, il figlio di Occhetto che è stato messo in mezzo. Ma in questa poveretto, domenica. Ma quella, ecco, quella è una persona messa in mezzo. Malcolm, in mezzo. Uno dei figli di Occhetto, Malcolm Occhetto, uno che il padre ha definito un disoccupato. Occupato. Adesso ho un numero di telefono a differenza non di so altri figli di politici che furono piazzati dappertutto peraltro. Vediamo se risponde, sentiamo. Ma che mi fate partire la musica? Dai con sto numero, vai. Pronto? Sì, buonasera, Marco Mocchetto? Chi è, scusi? Sì, sono Cruciani, ciao. Buongiorno. Ti disturbo? Buonasera. Ti disturbo? No, no. Volevo sapere una cosa. Ho letto questa mattina un'intervista di tuo padre sulla questione del vitalizio. La cosa ti ha fatto incazzare? Veramente non l'ho letta. Tuo padre dice che i soldi del vitalizio servono anche a mantenere i figli disoccupati. Sì, non ne so nulla, per cui... Cioè, siccome sono soldi pubblici, la cosa che voglio sapere, servono a mantenere... Poi ognuno fa con i suoi soldi, fa come vuole, eh? Il signor Occhetto può fare quello che vuole con i suoi soldi. Però siccome sono chiedo a lui, io non sono una persona pubblica, per cui se non le dispiace... No, per carità. ...continuo a fare quello che stavo facendo. Assolutamente, però siccome dice i miei ragazzi sono disoccupati, io non sono certo ricco, e questi soldi, che sono soldi del vitalizio, servono a mantenere mio figlio, i miei figli disoccupati, volevo capire se era vero. Mandato, su questo può controllare quello che vuole. E questo ha detto, anche questo ha detto. Vuole sapere se io sono disoccupato, avrà le sue fonti per controllare. No, no, ma non è questo, l'ha detto suo padre, non l'ho detto io. Non ho capito, perché il problema adesso è il vitalizio di mio padre. Alcuni giornali hanno iniziato a fare una campagna su quelli che sui vitalizi. Vabbè, dei parlamentari. Allora, la mia dichiarazione è che mi risulta mio padre prende lo stesso vitalizio di Cicciolina, veda un po' lei se... Forse il problema è questo, è su questo che magari bisognerebbe scrivere qualcosa. No, un po' di più, però vabbè, adesso il paragone non è Cicciolina, insomma. Ma no, non mi sembra. Cioè lei non riceve soldi da suo padre? Mi arrivano o non mi arrivano, non serviranno a mantenere i figli, immagino, serviranno a mantenere lui. Poi se nella sua vita ci sono anche i figli, sarà una cosa sua privata, se lui ha deciso di renderla pubblica, lo ha deciso lui. so. Già che ne sto fuori, scusi, lasciatemi fuori, no? Va bene, grazie. Ho citato un figlio di uno di quelli famosi, tutti gli altri, cioè, li trova, li vede benissimo in quali posti li trova, per cui tutti gli altri figli dei politici italiani. Cioè io non sono mai stato piazzato da nessuna parte. Nessuno non... escluso, cerchi qualsiasi. Sì, sì, no, ma pronto a scommetterci. No, ma quello è vero, ma lei non questa ha avuto mai la mia dichiarazione. Lei non ha avuto mai nessun favoritismo. A me mi sembra proprio di no. Può controllare il mio status di carriera dove vuole su internet. Va bene, grazie. Arrivederci. Niente, arrivederci. Brucida. La Zanzara. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Vedi Giuseppe, io vorrei scardinare Fabio Fazio. Contri televisivi. Allora, ieri da qualche parte, caro Parenzo, ho sentito il presidente del consiglio comunale del tuo paese, della tua città, scusa, Marcato, lottare con un tunisino, con un signore tunisino. Del mio paese, di Padova. Cioè, di Padova, di Padova. Di Padova. Tuo paese. Al signore, al signore tunisino, sì, lo dico da padovano, se gli fa così schifo l'Italia e Padova, prende un aereo e se ne torni a casa. Non è che noi abbiamo bisogno di lui, se gli fa così schifo che torni al suo paese democratico, culturalmente elevato, tollerante. Questa è la terra di Dio! No, se ti fa schifo, vattene a casa tua! Se ti fa schifo, vattene a casa tua! A un certo punto alta politica, eh? No, no, a un certo punto vattene a casa tua. No, no, perché lui diceva delle cose contro l'Italia, contro l'Italia razzista, avrà, eccetera, eccetera. Aveva criticato alcune cose razziste dell'Italia, a non certo si può punto criticare. Marcato diceva dimmi che fedina penale hai, e quello rispondeva io non ho nulla, non ho nulla. Poi si è scoperto che aveva dei precedenti. Sì. Quattro arresti oh, qua Paolo. Paolo c'è la sua foto, vergognati. Quattro arresti. Viene a pontificare in televisione, vai a casa, nessuna, vai a nessuna, casa, nessuna. Bitucci, vai a casa e impara a parlare italiano, è un fenomeno. Fermo, questa è la gente che vuole Padova che accoglie. Adesso scusa. Aspetta. No, vai a parlare italiano, impara italiano. Aspetta. Ma come si fa? Beh, lo pigliava per il culo. Ma lo pigliava come per il culo. Bitonci, diceva Bitonci perché lo pronunciava così, Bitonci. Dov'è l'offesa? Vai, come fai tu, Come fai tu? Bitonci. Aspetta, più bello Bitonci però. Sei un profugo? Allora, io sì, sono un profugo. Va bene, ma sei contento? Anche un profugo. Bene, allora abbiamo avuto un esempio di chi sono i profughi. Sì. Bene, teneteveli voi profughi. Va. Tu sei un profugo, perfetto. Sì. Ma è un bel esempio di profugo. Sì. Bene, bravo. Bene. Dica, sei scusa, un pagliaccio. Dica. Scusa. Noi chiediamo scusa, la dimissione noi scusa, di Tonci. Sì, apriamo il problema. Noi chiedo la dimissione di Tonci. Ma la cosa di Tonci lo vediamo noi, non tu. Cosa vuoi? Quattro arresti e parli di Bitonci. Hai visto quanto è giusto? Parli di Bitonci, c'hai odio, c'hai odio. Guidate il traffico. C'hai odio. Allora, questo scontro sembra tutto vero. Cioè, hanno reclutato un tunisino. E non so se erano consapevoli del fatto che avesse dei precedenti, fosse stato arrestato, eccetera, eccetera. Gli hanno messo contro un leghista. E quello che è successo, invece, come sappiamo, in un'altra puntata, in altre puntate di Quinta Colonna, è una vera e propria truffa, cioè dire hanno ingaggiato delle persone, tra l'altro sono venute fuori, sono un finto rom, eccetera eccetera, sono venute fuori altre cose la Striscia la Notizia, sentiamo un po' il colloquio tra Benelli, giornalista licenziato di cui parlavi tu, e il signore rom che è stato ingaggiato per fare la parte del rom che ruba, per fare la parte dell'extracomunitario violento, eccetera eccetera. Pronto, ciao carissimo. Ciao, come stai? Bene, ho cambiato numero, per questo ti ho chiamato. Come stai? Bene. Senti, ascolta, siccome sono venuti da me delle persone qua, però ho detto che non ero io, pensavo, ho detto che forse è mio cugino, come mi devo comportare con loro, Fulvio, perché ho paura io? Si sta sgonfiando tutto. Ancora. Quando ti arrivi tu hai 25 autorità di Parenti volevano fare una denuncia. Ma pensa. Lui ci ha parlato con Sinisi, con l'associazione Roma. Ha fatto, ragazzi, ma lì è tutto vero, ci sono gli firmati. Ah, va bene. Se lo volete spostare, io l'ho spostato. Va bene. No, fammi un piacere, perché c'ho bambini piccoli, ti ho detto l'altra volta. Sì, è finita qua, no, non fare cazzate. Sì, sì. Hai trovato per me un lavoretto, qualcosa che mi hai detto? Amore mio, non è che io faccio un senti qualcosa che mi hai detto? Sì, lo so, io qua non ti posso dire questo, da due settimane finisce il programma. Io che lavoro per il programma, non c'ho tempo di fare nulla. Va bene, dai. Risentiamoci a giugno. Va bene, dai, ti chiamo io a giugno, vediamo di far aiuti qualcosa, dai. Dai, grande. Ciao carissimo, ciao. Va bene, abbiamo il traffico, poi torniamo, 800 24 00 24. Tra poco un grandissimo ospite, Beh, amici miei, uno dei miei idoli assoluti, almeno le canzoni che ha composto e che ha scritto, che ha, eccetera, ci ideato. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. La Zanzara. Senza controllo sanitario. Allora siamo qui 800 24 00 24. Ma Denisa ha finito o no? C'era ancora Denisa? Denisa? Non ho capito che cosa volevi dire a Parenzo ancora. No, poverino, non ce la può fare a capirlo, glielo. Poverina, poverina sarà lei, ma insomma. Ma io sono poverina davvero, perché con tutti, sì, questi è un modo di dire poverino. Il problema non è quello di Occhetto. Il problema sono i vitalizi totali. Vabbè, questo possiamo essere anche d'accordo. Ma a questo, certo, punto che si fa? Si tolgono tutti quelli che ne avevano diritto prima? Assolutamente sì. Perché quando si tratta di intervenire sui diritti della povera gente, lo si fa senza... Ma nessuno ha tolto la pensione d'un bleu da un giorno all'altro a chi ne aveva diritto con vecchie regole? Non è successo questo? No, chiedilo. Gli esodati è un errore che un ministro ha fatto, un errore gravissimo che un ministro ha fatto, e a cui il governo Renzi sta lentamente e malamente mettendo una pezza. Questo è quello che penso. Denise vuole dire una cosa molto semplice, dimmi, che è la cosa che abbiamo già detto più volte: si interviene spesso sui diritti degli italiani, i diritti acquisiti, mentre quando si tratta dei vitalizi tutti quanti dicono no, come fanno a vivere? Ma c'è un sacco di gente che vede decurtato il proprio stipendio, che rimane senza lavoro, eccetera eccetera, senza poter dire nulla. Questo tra l'altro non è manco una pensione che tutti considerano intangibile, eccetera eccetera. Potremmo discutere. Il vitalizio, come tu sai e come la signora non sa e come molti non sanno, che è un errore, va bene, a differenza di una pensione non ha ad esempio nel corso degli anni la rivalutazione Istat. Ma che cioè c'entra? Al c'entra? Crescere del costo della vita, essendo un vitalizio, quindi è fisso. Ma cosa quello c'entra? Per tutta la vita non segue il costo della vita. Allora, se vogliamo dirla tutta, per me va cambiato il sistema. Ma vabbè, chi ce l'aveva prima? Va tenuto il suo così, Occhetto benissimo. È stata costruita una campagna di stampa invereconda. Ma quale campagna di stampa nei confronti di una persona che è stato un buon politico, non bravo, Mario bravo lo da dirà Grosseto, qualcun altro. Mario da Grosseto fa il comizio a favore di Occhetto. Mario da Grosseto non ha rubato. L'hai già detto quattro volte oggi. Ma è vero. E quattro volte che dici che Occhetto è uno specchiato, perché che non ha rubato. L'hai detto quattro, non puoi fare il mostro. Ma non puoi fare l'ufficio stampa di Occhetto. Ma ti rendi conto che sei ridicolo? In genere, la differenza è che l'ufficio stampa Mario, è pagato. Mario non Grosseto. Essendo pagato, ma appunto, io da nessuno ancora. Se non dal Sole 24 Ore Mario e da Mediaset, Mario non da prendo soldi da Occhetto né Mario, dal PD. Ma appunto, peggio ancora. Ma Mario no, da Grosseto dice l'ufficio stampa piglia soldi. Ma perché lo tenete? In fondo è del tutto inutile. Sì, Mario da Grosseto, vai, Mario. Ah, è vero, questo credo. Pronto, Cruciale, buonasera. Dimmi. Dunque, io sono uno di quei 4 milioni e mezzo di persone che si sono visti decurtare la pensione. Eccolo. Che beato Renzi, speriamo alla svelta, ci renderà come bonus 500 euro. Sì. Va bene. Bonus, allora, tra l'altro, è la cosa incredibile. Bonus. È una restituzione, è... lui la presenta come bonus. La presenta come bonus. Ma è una cosa elettorale, Cruciani, vergognosa. Esatto. Non mi fammi incazzare, Cruciani, non fammi incazzare. Perché lui sta regalando soldi a noi. Ma non sta regalando nulla, è una restituzione. È una restituzione. Bravo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. E lui la presenta come una restituzione. Ecco, bravo, lo dice a me. No, la presenta come una regalia, ecco. Anzi. Infatti, e ci sta anche pigliando per il culo. Vabbè, allora? Detto proprio in italiano. Allora ti volevo dire, dov'è lo scandalo se levano il vitalizio a Occhetto? il quale poverino ha due figli a carico, anche io avevo due figli a carico, hanno fatto i concorsi come li ho fatti io, siamo entrati al lavoro e stiamo lavorando tutti, grazie. Ma infatti a quella frase è una frase sbagliata, quella che hai detto, probabilmente lo stesso Occhetto lo riconosce, e avere messo in mezzo i suoi figli, devo mantenere i due figli disoccupati, è una cazzata che ha detto, una cazzata enorme. Bravo, e su questo siamo perfettamente d'accordo. In più ti voglio dare una notizia nuova, dimmi. Che non so se tu sai. Il signor Occhetto, in provincia di Grosseto, c'ha un potere. Ora non so se è intestato a lui, se è intestato alla moglie, se è intestato a una società di comodo. No, ma lo so benissimo, ha una casa da tanti anni vicino a Capalbio, se non sbaglio. No, su a Monziano. Sì, va bene, quindi poverino, non puoi dire io resto in povertà se mi tolgono 5.000, 6.000 euro. Se tolgono l'unica fonte di reddito. E se vende la casa, vendi la casa in campagna. Ma io non lo so se ha la casa di proprietà. Sì, non ho visto la dichiarazione. Siete sicuri che ha una casa di proprietà in Toscana? Basta fare una misura ipotecaria e venderà la casa. Facciamo vendere la casa. Ok, che abbiamo risolto i bilanci pubblici. Il problema è molto semplice. È ridicolo quel che dite, capito? È enorme. Aspetta, lascialo parlare. Lui poverino non è che ha fatto altro, è vissuto sempre alle spalle di noi italiani. No, ha fatto perché politica, lui li ha presi sempre. Vabbè, ha fatto il politico. Ma scusi, lei per chi votava anni fa? Per chi ha votato anni fa lei? Cioè lei pensa che tutti i politici hanno vissuto a spalle sue? Mi spieghi, perché il concetto poi è questo a quale si arriva. Per chi ha votato lei, Mario? Per anni, io per chi sono ha votato. Io sono di destra. E allora lei ha mantenuto per anni i politici di destra, non rompa i coglioni, perché lei ha mantenuto per anni quelli di non so quale partito, Parenzo, li ha votati e mantenuti. Questo è il suo ragionamento. Mario da Grosseto, ma chi se ne frega di Mario da Grosseto? Ma chi se ne frega? Fino all'ultimo c'è e anch'io, e che vuoi da me? Me, non mi rompere le palle, allora che vuoi da me? Anche io le ho pagate fino all'ultimo e non avrò la pensione e non rompo i coglioni, non avrò la pensione neanch'io perché sono lavoratore autonomo e quindi riceverò qualche verso. Non mi rompere i coglioni, perché io a 39 anni non avrò la pensione a 70. Ma che c'entra? Ma ti pare che Mario da Grosseto venga a rompere le palle a me? Ma che me ne frega a me? Mario da Grosseto, ma perché devi disprezzare la gente che chiama? Ma non disprezzo la gente, disprezzo Mario da Grosseto. Vada a fare con le vacche. Tu stai offendendo perché sei un beduino, un cretino. Lei ha beduino non è un'offesa. Lei ha votato non solo di sinistra. Lei ha votato per anni chi? Perché ha votato? Adesso voglio sapere. Chiediglielo tu, guarda. Cruciani, chiedigli per chi ha votato. Basta, già detto. Per chi ha votato? Fermi tutti. Per chi ha votato sta testa vuota? Questa testa di mozzarella di bufala. Per chi ha votato? Tranquillo, state calmi. Per chi ha votato? Questo mano in mano. Per chi hai votato? Ma perché offende la gente? Per chi hai votato? Amico Maremmano, perché hai votato? Ma l'ho già detto, Davide, non fare il coglione. Io non ti conosco. Non mi rompa le palle. Non puoi permettere di offendere nessuno, hai capito? Ma non mi rompa le palle, non mi rompa le palle a me. Ma come no? Ma come mai si rivolge a una persona a non rompere i coglioni? Ma chi cazzo ti conosce? Perché ha rotto i coglioni? Perché lei ha rotto i coglioni? Tu hai rotto i coglioni. Telefona dicendo lei ha detto una stupidaggine. Perché quando lei dice, quando uno, eccolo là, ecco l'idiota. Quando qualcuno dice, tutti, il signor, scusate, Mario, adesso comando io qua. Mario da Grosseto ha detto una cosa molto semplice. Al di là poi dello scazzo che avete avuto, adesso me faccio la parte del paciere che è incredibile, no? Arriva. Mario da Grosseto ha detto una cosa, poi avete detto, scazzato. Che tutti i politici rubano. Aspetta, lascia perdere. La prima cosa che ha detto che è Occhetto. È quello che mi ha mandato in bestia. Devi stare tranquillo, devi stare calmo e tranquillo. Calmo e tranquillo, nessuno ti vuole mettere in mezzo. Calmo, tranquillo, calmo. Allora, cosa ha detto il signor Mario da Grosseto? Che Occhetto non è, come dire, così povero in canna come si presenta, ma ha un potere in Toscana, Grosseto, e dunque, diciamo, non è che sopravvive solo grazie a quei 6.000 euro. L'amico è una persona scherzosa. Non c'entra un cazzo. Che non fa prediche. Ragazzi, giudica fra lui e te, divisa in due la stessa anima, però lui sa. Giuseppe, mi devo tenere, ma non rispondo a quelli di prima. A chi? Ma a mi chi? Devo tenere. Perché ti devi tenere? A quelli di prima, perché li manderei tutti a cagare. Cioè, chi è che manderesti a cagare? Tutti quelli lì, quelli che parlano. Tutti che, quelli che si sentono. Tutti si quelli sentono, che attaccano la politica così. Quelli dici? Di prima, li manderei tutti, ma. A fa culo, sì. No, ma non mandarlo tutti, a me per microfono, che poi dopo mi mandano con me su Facebook. Ah, sei un qualunquista, sei un assenteista. Dario Baldambembo è con noi. Ciao, ciao, ciao. Bene a tutti. tutti, ciao. Allora, Dario Baldamembo è uno dei più grandi, come dire, come ti definisci tu? Come ti definisci? Musico, no, musico. Sai che non ci ho mai pensato. Compositore, cantante, cosa sei? Quello che dicono gli altri, perché ma sempre bene quando mi dicono. Innanzitutto sono sempre molto contento e felice perché c'è sempre una grande stima su di me, o perché ho suonato un flauto in un pezzo a casa mia dell'Equipe, o perché ho fatto un assolo di pianoforte nell'LP di Battisti Amore non amore, o perché ho fatto il coro a mia Martini nel pezzo Agapimù, che però pure era mio, sì. Cioè, in tante cose in cui mi sono dire che hai fatto musica e composto canzoni per i più grandi artisti italiani, Mia Martini, sì. Renato Zero Mina e poi tanti, sì. Come dire, amico è che abbiamo sentito prima, che è roba solo rimandala, tua, rimandala un po', che è roba solo rilassa, tua, mi rilassa, è una roba che è andata in tutto il mondo, Mario da Grosseto. Sì, ti devo dire anche di una specie di aneddoto, no? Che io mi lamentavo con me stesso, no? Perché sì. Dicevo l'amico è ha fatto questo furore di successo in tutta allo Italia, allo stadio veniva cantata, se avessi preso i soldi per quante volte veniva cantata, lascia stare. Allora, saresti diventato ricco? Sì, però non mi lamento neanche adesso che ho tanti debiti quanti crediti. Perché hai debiti pure? Hai debiti pure? Bello, è fantastico avere debiti. Come fantastico avere debiti? Quanti debiti hai? L'importante è avere i crediti per coprirli, no? E quanti debiti hai? Che ne so? Privacy, ragazzi. Ma no, ma qui non c'è privacy alla Zanzara, non hai capito ancora? Un milione, no, meno, 500, 400. Molto meno. Molto meno. Cioè riesci a coprirli tranquillamente. Assolutamente, sì. Campi bene, sì. Sì, sì. Qual è la canzone che ti dà più soldi, per esempio? Cioè la canzone di cui sei autore che ti dà ancora tanti soldi con i diritti? Questa è una domanda che non mi ha fatto mai nessuno, ma è carina. Forse Più su di Renato. Perché hai scritto Più su tu. Ah, non lo sapevi? Ma no, so che hai scritto tante cose. Ah, non lo sapevi. Com'è che fa Più su? Poi più in alto ancora su, fino a sfiorare Dio. E gli domando io, signore. Ragazzi, ma vi rendete conto di quello che ha composto, di quello che ha scritto questo signore Più su spiagge, di Renato Zero? Spiagge di Renato, anche penso. Pure che questa, lo com'è che fa? Sì, so, questa lo sapevo. Spiagge, distese abbandonate, spiagge già vissute, amate poi perdute. Bello, carino. Pubblicità, torniamo subito con Dario Baldamembo. Siamo ad alti livelli qua, La Zanzara. Oggi tutti liberi di me. Di me che sono tanto fragile e senza te mi perdo. Per questa canzone, soprattutto quest'uomo che è qui davanti a me è un mito, ed è Dario Baldamembo. Ciao! Eccoci qui. E allora, Piccolo Uomo, in questo caso è cantato da Mia Martini, ovviamente, scritta da te questa canzone. Musica mia e testo di Bruno Lauzi, il grande testo Bruno. Testo di Bruno Lauzi e musica tua. Il grande Bruno. Siamo al top assoluto. Top assoluto. C'è anche una versione che non mi hanno messo, ovviamente, cantata da te, che è quella che ogni tanto, quando vado a prendere mia figlia, metto la mattina, capito? Per un periodo, caro Parenzo. Le confessioni di Cruciani. Andavo a casa a prendere mia figlia e portarla a scuola e sentivamo insieme questa canzone cantando la squarciagola. Mandala. Dovrei mandare? Ma no, ma non la posso cantare io. Sì, canta. Adesso la faccio cantare qualche pezzo, la faccio cantare così, senza base, senza nulla. Dario, ci mangiamo il fegato. Come che dici? Aspetta, ma perché il testo non l'avevo cantato io. Due mani bianche su di me, bianche colombe dell'addio. Poi? Che giorno triste questo mio. Oggi tu ti liberi di me che sono tanto fragile. E basta. Eccolo, è lui. Com'è? Piccolo uomo. Uomo. Morire. È l'ultima occasione per me. No. È l'ultima occasione per vivere. Avrò sbagliato, sì, lo so. Ma insieme a te comunque ci riuscirò. Perciò ti dico, piccolo uomo. No, piccola donna. Andi via. Siamo ad alti livelli qua. Grazie, Laura. Io, piccolo sai che è un'impressione che ti devo dire, perché tu non eri neanche nato ai tempi. Quel tempi 66 sono nato. No, ero nato forse. Quando l'hai composta questa? Vabbè, eri l'asilo, cioè, capito? Vabbè, ero l'asilo. Facevi la pipì. Ma dimmi una cosa, ma su questa vicenda incredibile di dello scazzo pazzesco che c'è sempre stato in famiglia, adesso sono 20 anni credo dalla morte di ventennale dalla morte di mia Martina. Ti devo dire una cosa importante su questo ventennale, che allora c'è stato uno scontro pazzesco anche qui alla Zanzara con l'intervento del padre, tra il padre e Loredana Bertè, che è la figlia, la sorella di mia Martina. Non mi far parlare di Loredana perché è un altro pianeta, cioè in che senso? È un altro pianeta, cioè basta che le guardavi mia Martina e Loredana Bertè, erano due cose assolutamente diverse. Quindi non voglio entrare nel assolutamente, non voglio fare c'è un'accusa pesantissima che fa Loredana Bertè sostanzialmente al padre praticamente di avere contribuito alla morte della figlia. Secondo te è vera questa cosa o no? Martini per tanti anni. Io so che c'era una specie di rottura di palle dietro queste cose, perché erano sempre senso? Nel senso che io le considero rottura di palle, nel senso per il tuo lavoro, tu. No, io non sono mai entrato in questo tipo di cose. Tant'è vero che io ho visto e ho conosciuto per la prima volta 15 giorni fa il papà di Mimì, che era in una cosa, abbiamo fatto una specie di memorabile, come si dice, memorandum, memorial. L'ho conosciuto, gli ho detto sono contento di averla conosciuta, e mi ha fatto altrettanto, ciao. No, ma okay, adesso ti faccio sentire quello che ha detto a noi il padre, ma non mi interessa, No, ti faccio sentire, perché ci deve essere qualcosa di profondo che tu ci puoi svelare. Ma io no, per favore, non farmi cadere dentro in queste trappole. Ma che sono trappola? No, non è una trappola. Trappola, ci tengo quello, no, io tengo quella. Nessuno sa niente di niente, perché io te lo garantisco che voi non sapete niente e neanche Loredana sa niente. Ma fanno tutti di sapere, fanno finta di sapere tutto. Questo tu sai qualcosa? No, mi fa ridere. Della morte di Mia, sai qualcosa? No, niente. Nulla. Niente. Niente. E non ne vuoi nemmeno parlare. Non è inutile che mi guardi con lo sguardo con lo sguardo indagatore da lo sguardo indagatore. Lo sguardo è uno sguardo di chi ha frequentato Mia Martini per tanti anni. No, non pensare più di tanto. Non pensare più di tanto. Non pensare più di tanto è buono. Ma è anche quasi un titolo di un pezzo. Non pensare sentiamo ancora più un po' di musica e chiudiamo tutti. Dai, basta. Cioè, voglio chiudiamo la baracca. Bravo. No, aspetta con la musica. Aspetta. Ho scritto un messaggino anche al dottor Squinzi dicendo possiamo riascoltare. Ascoltare per cortesia, finalmente che c'è un po' di. Bravo. Non c'è sesso, non c'è. Fermo. No, volevo dire che. Che cosa mi volevi dire? Avete l'anima dei giornalisti. Beh, certo, qua. Per forza. Che cos'è che volevi dire su Mia Martini? Già che prima? Siete vicino. Su Mia Martini, cosa volevi dirmi prima? Che non avevo nessun rapporto più di quello che era facciamo la canzone, ok, della tonalità, c'era stima, poi c'era anche qualche scazzo in sala di incisione, ma per motivi assolutamente musicali. Sì. Tu lì non ci arrivi, abbassiamo la tonalità, cose che fra l'altro non mi interessano da giornalisti, mi interessano gli scandaletti che non ho, quindi mi dispiace di non accontentarvi. No, ma non era la ricerca dello scandalo. Ma non posso venire qui a parlare dei miei mettini perché c'era Loredana che lo accusa perché è ammazzato il padre, perché non è vero, sono tutte cazzate queste qua. Quelle che dice Loredana, dice. Ma si alimentano tutti perché si autoalimentano su queste cazzate, sono cazzate. Cioè non è perché morta per colpa del padre. Ma non si sa niente di Mia Martini, non si sa. Io l'ho saputo da Renato Zero che mi ha chiamato, fa assai pise, oh è morto Mimì, e dico porca miseria, era una domenica mi sa. Sì, ero a casa con i miei amici, io più di queste cose... pianto? No. Non hai pianto. Raccontami un aneddoto invece di. Ma non serve piangere. Raccontami un aneddoto di Renato Zero. Giornalista sto qua. Raccontami un aneddoto di Renato Zero. Invece ha detto che la canzone che ti fa guadagnare ancora di più è quella di Renato Zero, che è abbastanza sorprendente. Sì, ma non la mettere così. È la canzone che mi dà più soddisfazione. Quale canzone? Bella. Oltre al fatto di farmi guadagnare e di farmi andare avanti giusto, a vivere. Mica è una. Però soprattutto è una stelletta da sceriffo che mi sono appuntato al petto. Perché la canzone Più Su è stato un capolavoro mio e di Renato Zero insieme. Più Su, sì, più su. Mettila un attimo che la ricordiamo, che non me la ricordo. Un capolavoro, sono modesto, ti dico questo. È un capolavoro sia per la musica ma soprattutto anche per il testo. Abbiamo tutto, senti che roba. Che è un capolavoro. Il testo di Renato è un'omelia papale. Ascolta. Un momento. E poi spaziale. Beh, sarei arrivato io in vetta al sogno. Siamo sempre in onda? Sì, altri livelli, eh? Altri allora livelli. Ti no, ecco, lascia da aspetta, fammi sentire. Fammi sentire un attimo più su. E poi in alto e ancora su. Beh, che bello, bravo, bravo. Fino a sfiorare Dio. Siamo al top, eh? Altro pianeta. E gli domando io. Ma lo senti ancora, Renato? No, abbiamo... Scazzato, è una bella no? domanda. No, no, non c'è stata nessuna scazzatura. Tu non scazzi mai con nessuno. Ma no, c'è qualcuno che senti ancora. Vedi che è un giornalista. C'è un giornalista di quelli proprio. No, ogni nome che facciamo, dici no, quello, cioè, no, quello è che tu non hai mai avuto dei rapporti che finiscono per automatismo. Ma sì, scazzo sì. Continuamente, assolutamente sì. È bene. Ma rilassato, perché se io Renato Zero lo sento, ti faccio gli auguri per Natale. Però ciao, è un rapporto finito per automatismo. Finito per automatismo, perché non abbiamo più niente da dirci. Però ci vogliamo bene. Cioè, veramente, anche con me. Io ho avuto un rapporto grande con Mai Buongiorno, per esempio. Con Mina, no? Hai ancora rapporti? No. Mina, no, Mina si è blindata a Lugano e non ma ce n'è nessuno. Uno con cui ha rapporti, incredibile. No, no, Mina, vabbè, avrei da dire, ma non ti dico niente. Così perché impari, non mi dici niente? Così impari a fare giornalista. Ma come no? No, io quello no. Faccio. Dimmi una cosa su Mina. Ti direi delle cose che prenderesti l'esclusiva per milioni di dollari, ma non ti dico niente. Dai, dimmi qualcosa su Mina, dai. Dimmi qualcosa. No. Dammi un aneddoto su Mina, dai. Ma dai. Non sono pettegolo come te. Allora, e se tu che me lo dici, e se tu che mi spingi, cioè no, prima mi dici, ti direi degli aneddoti pazzeschi, certo, su Mina. Ma io sai quanto ho da dire di tutti. Dimmene uno, dimmi un aneddoto. Tanti, perché ho lavorato dietro. Le quinte, lo so, no? Lo so, quindi... per questo te lo chiedo, per questo te lo chiedo. Ma no, non hai solo lavorato dietro. Dammi un aneddoto su Mina. Beh, Mina c'era, riprendo una famosa frase di Lucio Battisti, sì, che ai tempi diceva: Mina è una Ferrari che corre a 40 all'ora. Sì. Ragazzi, è vera, famosa questa frase, perché è vero. Quindi è sempre stata una che poteva conquistare il mondo. L'ha un po' conquistato, no? Un pochino, perché pochino. Per esempio in America c'era Led Sullivan Show, ai tempi era famosa. Sì. Che la volevano perché sarebbe diventata molto più di quella grande Liza Minnelli. Sì, sì, sì. E invece aveva paura dell'aereo, non voleva. Quindi lì si pigra. Qualcosa di più, cioè che non gliene fregava niente, no? Gli bastava provinciale. No, provinciale. No, provinciale. Non fare il cattivello. Non fare il cattivello. Sei troppo cattivo, dai. Provinciale. Provinciale, no, quello è Davide. No, sei solo giornalista. Provinciale è una brutta cosa, dai. Provinciale è brutta. No, che Mina comunque niente, ha fatto malissimo. Beh, ma il tuo cantante preferito di oggi italiano qual è? Cioè quello che ce ne sono tanti. Dimmene tre, dai, dimmene il tuo podio. Poi ti lascio. Anche se non è un mondo mio, ma per esempio Vasco Rossi, bravissimo. Poi? Certo. Max Pezzali. No, Pezzali non penso. Ha una bella voce. Vabbè, il tuo podio qual è? Dimmi il tuo podio. Zucchero? Zucchero, bravo, sì. Vabbè, non è il podio, però, dai, non lo istigare. Ma il podio ce ne sono abbastanza. Mi piace. Chi? Chi ti piace? Ci devo pensare. Vabbè, dai, ti lascio così, dai. Grazie Dario. Ciao, Dario Baldabebo. Ciao. È l'amico, è questo è un mito, una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Fra lui e te divisa in due la stessa adesso anima. Resti qui a sentire quello che dicono gli ascoltatori, Dario, che non sopporti. Questo mi interessa. Aspetta. No, questo mi interessa. Carlos da Viterbo, vai, Carlos. Buonasera Cruciani. Dimmi. Senta, io la chiamavo, mi dica se sbaglio. Lei, voi anzi, avete sempre difeso la libertà d'espressione e la libertà di ognuno di dire quello che vuole. Sì, assolutamente. Quindi, assolutamente. Allora, mi deve spiegare per quale motivo si è strappato le vesti quando il cardinale ha detto quello che ha detto. No, questo signor cardinale, io non mi sono strappato le vesti, io dico che tutti possono dire quello che vogliono, però posso anche avere la libertà e soprattutto rivendico la libertà di criticare. Il cardinale Giannis Francis Pujats dice che l'Unione Europea, cardinale lettone, dice che l'Unione Europea è sodomita ed è peggio di Hitler e Stalin. Ora, siccome questo qua è un cardinale della Sacra Romana Chiesa, a mio parere il Papa dovrebbe dargli un calcio in culo e dovrebbe cacciarlo immediatamente, perché questo qua non è che sostiene semplicemente che i gay sono contro natura, il che vabbè per la Chiesa è abbastanza naturale, anche se non lo dice nemmeno Papa Francesco, che dice altre cose, l'accoglienza, i gay sono uguali eccetera. Dice che neppure i regimi di Hitler e Stalin osarono mettere la sodomia al centro della politica di Stato, cioè costui, questo cardinale, che ripeto andrebbe preso a calci nel sedere, sostiene un'altra cosa, che l'Unione Europea ha praticamente aperto la strada alla quella che lui chiama sodomia eccetera eccetera. Ora Carlos, io non so, lei è d'accordo con questa cosa? No, non c'entra se uno è d'accordo o meno, il punto è che se ognuno può dire quello che vuole, ma questo può dire quello che vuole, io ho il diritto di dire che il Papa lo dovrebbe prendere a calci nel sedere. Stefania, provincia di Ferrara, dai. Stefania. Ciao, volevo dire, dimmi, quello che ha detto Danna su Saviano è una cosa della quale veramente si deve vergognare, perché lui prima di parlare così di Saviano dovrebbe magari provare a mettere in gioco quello che ha messo in gioco Saviano della sua vita per poter solo pronunciare una frase del genere, perché penso che noi persone normali che non abbiamo mai rischiato niente e nessuno della nostra famiglia, prima di parlare di certe cose, e lui non è sicuramente uno di quelli che ha rischiato, dovrebbe pensare, e prima di dire che dice delle cose o esprime delle opinioni un tanto al chilo, dovrebbe forse pensare... Vabbè, lei difende Saviano perché... semplicemente... Guarda, però scusami Stefania, prima il senatore che abbiamo ascoltato ha criticato alcune frasi che ha detto Saviano sugli impresentabili, non è che ha detto chissà che... Dice che fa delle cose un tanto al chilo, no? Moralismo un tanto al chilo, sì, moralismo tentativo. Gino da Milano, vai Gino, vai! Sì, qualcuno mi chiede di Minuetto, Dario. Minuetto, che canzone è? Ma Minuetto? Perché sono tutti incazzati neri. Cioè io non c'entro niente con la musica, hai capito? No, Minuetto, oggi che qua c'entra Minuetto? Devi andare avanti tu con la politica. No, dimmi Minuetto. Incazzature, sono tutti Minuetto, incazzati. Mi dispiace per loro. Dimmi Minuetto, cos'era Minuetto? Raccontalo un po'. Minuetto è un pezzo nato da un arpeggio, no? Cioè, ma di chi era? Di chi era? Era di un certo Baldan Bimbo e poi... No, quello di chi era, d'accordo. Cantato da chi, scusami? Da Mia Martini. Da Mia Martini, com'è che faceva? Ricordamelo un po'. Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pare un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, ma poi ci penso e tante volte forza non ce l'ho. E adesso all'attacco, Gino da Milano, vai Gino. Sì, all'attacco, ciao, dopo buonasera. Questo momento di pausa, questo momento aulico, questo momento alto di poesia, voglio un attacco, voglio sangue e merda per concludere, Gino. Intanto, so che si parla di sodomia, in questi giorni mi sento estremamente inculato dai giudici della Corte Costituzionale. Ecco. La legge Fornero aveva un sacco di inculati al futuro, allungando le pensioni, tutto quello che sapete, e piccole fregature a ritroso. Questi giudici della Corte Costituzionale cosa fanno? Tolgono le piccole inculate a ritroso, allungando, aggravando le inculate a futuro. Tutti noi dovremmo sentirci inculati, perché ci stanno aggravando la situazione. Ecco. Andremo sempre dopo in pensione, sempre più tardi. Se c'è una possibilità di ridurre il tempo facendo questa roba qua, i giudici semplicemente ci allungano il tempo. Questo dovrebbe capirlo anche Parenzo. Una delle colpe di Occhetto, se vuoi sapere delle colpe di Occhetto, è stato quello di sostenere o mantenere il sistema delle pensioni retributive a parte vitalizie. Ma certo, non c'è dubbio. Poi queste persone qui... Ascolta solo Minuetto adesso, va a vedere tutte le palle tutti. Le mani strumenti. Sì, ma Giuseppe, posso dirti una cosa? Dimmi una cosa, Dario. Tu hai scritto questa canzone, ti rendi conto? Hai scritto questa canzone. Sì. Ma ti senti orgoglioso di aver scritto questa canzone o no? Cioè, ogni tanto le riascolti le canzoni che hai scritto a casa? Sì, sì. Ma questa no. Perché preferisco questa no? Perché questa mi ha già soddisfatto molto. Mi piace, preferisco sentire Inno, che è più sconosciuta. Dimmi che non la conosci. No, ma la conosco, io faccio finta di non conoscere. Sì, è bravo. Inno, ti piace Inno? Invece quella, Inno che, quella che ti mette tristezza, invece cos'è? Mi hai detto una di Battisti ti mette tristezza. Qual è quella che ti mette tristezza? No, di Battisti? Non ho detto così. Sì, l'ho letto da qualche parte nelle pochissime interviste che Non gliel'avevo detto perché si incazzava. Giardini di marzo. No, Giardini di marzo, sì. Ti mette tristezza. Non lo sopportavo. Non sopportavi Giardini di marzo. No, non mi piace. Proprio non piace. Ma ti piace a tutti gli italiani Giardini di marzo? Ma ragazzi, siamo ma l'hai scritta tu? Qui c'è giornalismo democratico in questo. L'hai scritta tu, Dario, o no Giardini di marzo? No. No, che c'entravi allora? Sicuro? Niente, stavi lì. Che lo stavo incidendo con lui. La stavi incidendo con lui, era però l'organo Hammond. La odi. Tu sai cos'è l'organo Hammond? Poco. Forse no. La odi. La odi, sì o no? Ragazzi, la odi mi sento no, abbastanza Giardini, inutile qua stasera, perché tanto proprio stanno parlando quelli lì, capito? Ciao. Lascia parlare loro. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Buon appetito. Vai con la pasta. Dia la pasta che può iniziare a bollire. Ciao. Vero amico anche bugiardo è. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Gnappi, gnappi, gnappi. Radio 24. La passione si sente.